Diritti e doveri degli studenti universitari. Per gli studenti universitari conoscere i propri diritti è importante quanto conoscere i propri doveri. La Costituzione italiana tutela gli studenti attraverso l'articolo 34. Ed è proprio da questo che discende lo Statuto dei diritti e doveri delle studentesse e degli studenti universitari. Le modalità e i mezzi attraverso cui questi vengono garantiti vengono di volta in volta specificati dai regolamenti di Ateneo ed appositi atti ministeriali. È un documento che tutti gli studenti dovrebbero leggere attentamente. L'organo garante degli articoli espressi al suo interno è il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, a cui ogni universitario può rivolgersi in merito alla corretta applicazione dello statuto stesso. Di seguito riportiamo una sintesi degli argomenti affrontati all'interno dello statuto. Gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. Gli studenti che rientrino nei parametri di reddito e di merito stabiliti per legge hanno diritto a percepire la borsa di studio nell'anno accademico di riferimento. Hanno altresì diritto, in tale anno, ai benefici previsti di vitto e di alloggio. Tutti gli studenti hanno diritto ad accedere a percorsi formativi di ogni livello. A tal fine, l'università fornisce agli studenti tutti gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune formative e raggiungere il successo formativo. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo democratico dell'università, esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo. Gli studenti stranieri iscritti in Atenei italiani hanno il diritto di partecipare attivamente e a pieno titolo a tutte le fasi della vita universitaria. Per quanto riguarda le prove d'esame, gli studenti hanno diritto a richiedere di essere esaminati dal docente titolare del corso, nonché di avere assicurata una ragionevole programmazione del proprio carico di studi, attraverso una buona gestione del numero e della cadenza degli appelli. Gli studenti hanno il diritto ad usufruire dei servizi informatici e bibliotecari, anche in orario notturno. Gli studenti hanno diritto a conoscere i meccanismi di calcolo che definiscono l'importo delle tasse da versare. D'altra parte, è dovere di ogni studente contribuire al sostegno economico della propria università, fatto salvo per chi ottiene una borsa di studio che limita o annulla il versamento di queste tasse. Tutti gli studenti godono dell'elettorato passivo e attivo. Essi esercitano il proprio diritto di rappresentanza nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di facoltà e nei consigli di corsi di laurea. Gli studenti hanno diritto ad avere convalidati i crediti maturati nel passaggio di corsi di laurea uguali o affini. Stesso discorso vale per gli studenti che hanno superato delle materie durante l'esperienza dell'Erasmus. È importante notare che lo statuto può essere difeso da un difensore civico, cui funzioni e modalità di intervento devono essere regolate da un testo redatto dall'Ateneo che voglia avvalersi di tale figura.